Sento, vi sento. Benissimo. Dicevamo, è sempre un piacere parlare, sì, durante la in realtà volevamo liberarci di te, ma non è possibile. Anche a 400 km di distanza ci sei. Sto lì, esatto, che vi pungolo. Bene, 20 luglio ci siamo già, sì, sentiti in precedenza nel pomeriggio. Sì. E hai parlato di quel che è successo, di quel che è accaduto oggi a Genova. 20 luglio è una data importante. Dici un po', facci riassunto della giornata e poi cosa succederà nei prossimi giorni. Allora, sì, parto da un punto di vista, diciamo, soggettivo. Io ero stato a Genova in occasione del decennale del G8 e dunque anche della morte di Carlo. Era il 2011 e, insomma, il corteo fu molto molto partecipato. Fu una bella esperienza, anche se poi non si riuscì, si finì il corteo in realtà molto distanti da dove Carlo venne ucciso. Oggi invece, a 15 anni dalla morte di Carlo, è la prima volta che vado al presidio per Carlo in piazza Limonda e, insomma, è una bella esperienza, perché ci sono tutti i compagni, tutte le compagne genovesi, devo dire un'età anagrafica abbastanza diversificata, si va appunto dai bambini ai chi c'era e chi non c'era, insomma, in quei giorni. Sì, esatto, sì, io per esempio non c'ero, ero anche molto piccolo nel 2001, però insomma Carlo ricordo benissimo le immagini al telegiornale steso sull'asfalto grondante sangue, quindi comunque un'immagine che mi è rimasta e che porto con me, con amore, con odio e con rabbia. Quindi la situazione oggi lì al presidio è stata molto bella, tanta musica, tanti interventi, la mamma di Carlo, Heidi Gaggio e il papà di Carlo, Giuliano Giuliani, che hanno parlato, e ha parlato anche Zero Calcare, il nostro Zero Calcare, che insomma sempre molto schivo, evidentemente sta riuscendo a superare anche lui le sue un po' così timidezze, ha parlato anche lui dal palco. Tra l'altro va detto che i fumettisti, oltre a lui c'era Spadaro e anche altri di cui adesso mi dispiace ma non ricordo i nomi, hanno fatto delle tavole che poi sono andate all'asta per solidarietà economica, materiale, per chi ancora sta in carcere, per lotte sociali, ma purtroppo, come sappiamo bene, stando a Radio Onda Rossa, che è anche un nostro compagno, comunque ha ancora problemi con quella storia, e lo abbiamo sempre detto, Genova appunto non è mai finita, perché poi quel dispositivo repressivo è tuttora in atto, l'abbiamo visto con il 15 ottobre, in cui il reato di devastazione e saccheggio è stato riproposto. Quindi insomma si è ricordato Carlo, ma più in generale è un appuntamento per Genova un po', mi viene da paragonarlo a certi appuntamenti che noi abbiamo a Roma, penso a Renoiz, penso all'appuntamento per Valerio Verbano, che effettivamente a Roma è molto più partecipato rispetto a quello di Carlo. Però ecco, sono avvenimenti che bene o male riescono a unire un po' tutti i settori di movimento, che e servono soprattutto a non dimenticare, credo, no? Che, perché poi, esatto, appunto la tendenza è quella poi non solo di aver fatto un macello a Genova, la macelleria messicana appunto cosiddetta da un poliziotto così definita, non soltanto appunto dicevamo a non dimenticare questo, ma a non dimenticare poi tutto quello che è successo dopo, come dicevi giustamente te, cioè tutta la repressione che c'è stata e anche il massacro mediatico che c'è stato in quei giorni stessi, in cui che poi è perdurato fino ad oggi, in cui appunto poi da una parte la magistratura nella gran maggioranza dei casi appunto degli esiti della verità giudiziaria appunto che è stata, e poi appunto della verità mediatica che è stata data di quei giorni e che è poi sottende a quello che succede anche oggi appunto con, come appunto dicevi te, con le repressioni dei nostri giorni che seguono quel modello, insomma, di sì, massacro mediatico di chi fa le lotte, ecco. Diciamo che Genova è stato un laboratorio in quel caso, ma in realtà fu un laboratorio anche già a Napoli, qualche mese prima, è stato un laboratorio effettivo di repressione, che tra l'altro in qualche modo si sta anche un po' ripetendo, perché per certi versi Ventimiglia o comunque i migranti a Genova stanno subendo anche qui una normalizzazione che potrebbe avere poi un suo sviluppo anche in altre parti d'Italia, quindi anche qui Genova nuovamente come laboratorio di una nuova repressione, di un dispositivo securitario che in qualche modo deve aggiornarsi. Io tra l'altro volevo anche mettere in risalto un altro aspetto, ne parlavo quando oggi pomeriggio ho parlato anche con i compagni di Blackout, ed è il fatto del reato di tortura. Ultimamente se ne è parlato molto sui giornali proprio perché è stato rimandato, diciamo, la sua approvazione, questa legge sul reato di tortura, che in realtà è una legge zoppa, perché è stata estremamente depotenziata, e ciò nonostante non è passata. E questo va di pari passo con una certa controffensiva reazionaria da parte degli ambienti sbirreschi, perché oggi veniva notato, c'era un convegno di un sindacato di sbirri, adesso mi sfugge anche il nome, non mi ricordo. Non ci interessa. Per la prima volta sono arrivati a fare un convegno ufficiale qui a Genova, insomma non era mai successo, e chissà, magari in futuro arriveranno anche a fare un presidio per dire che Carlo era uno stronzo e stava lì con l'estintore in mano. Esatto, cioè, quindi questa controffensiva sbirresca in qualche modo prima o poi andrà contrastata, e io credo questa controffensiva sbirresca si fa sentire anche ai piani alti dei palazzi del potere, cioè, in cui leggina sulla tortura non riesce a passare. Guarda, da anni peraltro in programma c'era addirittura una cosa ancora più piccola, se vuoi, in linea con, non perché ci teniamo a queste cose, tutto sommato aggiungere un reato non è che sia nelle nostre massime aspirazioni, insomma. No, esatto, tra l'altro parliamo della Redonda Rossa, mi rendo benissimo conto. Però dà il segno, dà la misura esattamente di quali sono i rapporti di forza attualmente e di quali sono le forze di spirito. Però, appunto, un'altra cosa piccolissima che fa il paio con quella era quella, poi ci fu anche dibattito anche su questa cosa, che diceva, vabbè, un finale, però persino mettere un numero di matricola sulla divisa delle forze del cosiddetto ordine è una cosa che è stata sempre così declamata, annunciata, eccetera eccetera, e manco quella è stata fatta più o meno, diciamo, da questo punto di vista, sempre come segnale, siamo più o meno con buoni fratelli, ad esempio, in buona fratellanza, diciamo, dal punto di vista appunto di questo tipo di dispositivi, con quello che magari sono le forze dell'ordine turche. Ecco, mi viene in mente di fare questo accostamento, insomma, più o meno per capire qual è la misura della democrazia scritta fra virgolette, la democrazia formale che costoro appunto vanno sbandierando. Ecco, questo è lo stato dei fatti, delle cose oggi. Sì, andava notato soprattutto a margine di quanto successo a Genova, in cui fu perpetrata e operata tortura a tutti gli effetti tra Diaz, Bolzaneto, quindi questo è sicuramente un aspetto che mi premeva sottolineare. A questo punto io passerei un po' a lanciare un paio di appuntamenti che ci stanno ancora qui a Genova. Ne abbiamo già parlato con Heidi, Giuliano, da questi microfoni, però insomma vale la pena ricordarli. Domani ci sarà la presentazione di un libro proprio sulla Diaz, Happy Diaz, di Massimo Palma, e ci saranno insomma diversi invitati, diversi relatori, tutto questo a partire dalle 20:30 proprio alla scuola Diaz Bertini, che appunto dopo tanti anni viene anche riaperta al pubblico, e immaginiamo anche quante persone ripercorranno quelle stanze che insomma sono state appunto, come dicevamo prima, luogo di tortura. Tutto questo poi continua perché in serata al laboratorio sociale occupato Buridda c'è uno spettacolo, ci dovrebbe essere anche Mark Howell, giornalista che insomma in primo piano ha subito, lui parla giustamente di tentato omicidio da parte delle forze, gli organi dello Stato nei suoi confronti. È l'unico che ha ricevuto dei risarcimenti, tra l'altro, che sì, io sappia, sì, penso sia un caso unico, proprio per indicare appunto l'unicità di sì, queste situazioni. Beh, così un po' come dire vabbè, sì, lì ci siamo accorti che abbiamo sgravato le famose mele marce, no? Cioè, esatto, può succedere, sì, però esatto, sommato l'apparato poliziesco, dai, qualche mela marcia ogni tanto ce la ritroviamo e quindi ci diamo due spicci. Questo per domani sera. Poi in realtà c'è anche un altro incontro, parliamo di sabato 23 luglio, sui migranti, profughi, l'accoglienza, il diritto d'asilo, insomma tutto questo dalle ore 10 a Palazzo Ducale, con diversi ospiti, relatori, si va da avvocati, sociologi, all'Osservatorio per la Repressione, associazionismo e quant'altro. E poi il tutto, almeno le iniziative in ricordo di Carlo, si chiuderanno con un torneo di calcio a 5 al centro sociale Pinelli il 23 e 24 luglio. Un programma molto ricco, ma insomma chi vuole lo può andare a risentirsi, o lo cerca su internet, oppure si riascolta la corrispondenza con Heidi Giuliani. E quindi iniziative importanti appunto per ricordare Carlo. Va bene, io credo che te tra l'altro stia facendo un giro piuttosto lungo, quindi avremo modo di risentirci anche nei prossimi giorni. Non annunciamo altro, perché è giusto che sia così. Lasciamo un po' di suspense. Va bene, allora ti ringraziamo per questo così, per questo parallelismo fra Roma e Genova, come quello di 15 anni fa, in cui ci trovammo esattamente nella stessa situazione, con esattamente la stessa situazione formale, al momento, all'epoca in realtà era tutto molto più drammatico e molto più coincidato, e anche penoso, perché avevamo vissuto la morte di un giovane compagno, insomma, in quelle giornate che non dimenticheremo, sia per chi c'è stato, sia per chi sentì le dirette dell'allora Radio Gap, no? Che era questo circuito di radio, ti ha citato Radio Blackout ne faceva parte, questo circuito di radio, anche quello un esperimento in qualche modo molto riuscito, che poi si è andato un po' perdendo negli anni. E vabbè, insomma, dai, ci risentiamo presto allora. Sì, volentieri. Allora, grazie per lo spazio, Fefo, a presto allora. Buona permanenza, ciao. Ciao, un saluto agli ascoltatori, a tutte. Ciao.